La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà, fino alla fine dei suoi giorni, nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Saluti dal faro di Finisterre. Saluti dalla nebbia. Al mio paese era fittissima e io non vedevo l'ora che venisse questa nebbia autunnale, perché così potevo vedere di nascosto la mia migliore amica, un'altra ragazzina della mia età che mi era proibito vedere, la famiglia non approvava, perché la sua famiglia era in sospetto al prete, alla gente del paese. Insomma, c'era una diceria, come se le donne di casa fossero poco serie. E perché c'era questa leggenda? Perché a casa sua, appunto, erano venuti in sospetto al paese, perché erano molto diversi dagli altri, perché leggevano i libri e in più erano anche un po' artisti, sapevano il francese. Il nonno, il vecchio notaio Massa, era un musicista anche, componeva musica ed era stato allievo di Respighi, e veniva un suono di pianoforte sempre da casa loro. Questo, insomma, non piaceva. Защитную окрашенную краску ударю шаг по уличкам горбатым как просто стать солдатом. E comunque a un certo punto accadde un tale scandalo che non mi fu più possibile vederla. La verità però, perché il paese li detestava, i signori Massa, li detestava non tanto per il pianoforte, per i libri, soprattutto per invidia. Perché il vecchio notaio, il compositore, aveva una lauta pensione. Ed era una pensione da notaio così alta che i suoi parenti potevano fare gli artisti alle sue spalle. Chi dipingeva, chi suonava il piano, chi andava in vacanza a Firenze, tutto con la pensione del vecchio. E gli stavano sempre a fare i conti in tasca. E appunto poi accadde questo scandalo che io ho rielaborato nel romanzo Memorie malvagie, che uscì da Marsilio nel 1976, e appunto attualmente introvabile. Chissà mai su eBay o una bancarella, non lo so. Comunque, qui ve lo raccontiamo. Al centro del paese viveva il vecchio Massa, notaio. L'ultima volta che aveva invitato gente per il suo compleanno aveva 100 anni ed era stato parecchio tempo prima. Sorrideva sempre, perché aveva smarrito la memoria. Usciva solo per andare in chiesa, a pregare Dio in francese. E qualche volta bloccava il traffico. Si fermava in mezzo alla strada perché d'un tratto credeva di essere a Parigi 80 anni prima. I suoi occhi azzurri diventavano felici e gridava allegro: «A me una bicicletta!». Allora usciva la serva e senza ridere lo riportava in casa. Il vecchio Massa era strano, ma aveva una pensione favolosa con cui i suoi figli e nipoti vivevano da ricchi. L'invidia e le maledizioni del paese non scalfivano la buona salute del vecchio, né gli sperperi dei suoi parenti fannulloni. Ogni volta che c'era un funerale, la gente, invece di piangere, contava gli anni del vecchio Massa e tutti trovavano sconveniente che fosse ancora vivo. Gli invidiosi ebbero un momento di speranza durante la grande influenza che in un solo inverno liberò il paese di quasi tutti i vecchi inoperosi. Ma in primavera, per la messa di Pasqua, il vecchio Massa sedeva in prima fila e i suoi nipoti sfoggiavano abiti nuovi. Fu una delle sue ultime uscite. E cominciarono a circolare brutte voci. Ma il vecchio certo non lo sapeva, o non se ne offendeva, perché continuava a sedere su una poltrona di vimini in veranda, davanti ai giardini pubblici. Il suo sorriso non cambiava mai. Anzi, era diventato di una dolcezza che sfiorava la santità. E anche quelli che malignavano non potevano fare meno di accennargli un saluto. Ma la calunnia era ormai voce comune. Le brutte voci sul suo conto divennero lettere anonime e alla fine il maresciallo, con 2 carabinieri, bussò alla porta della famiglia Massa per fare una verifica. I Massa erano signori ed era imbarazzante per il maresciallo dire la ragione della sua visita. ammise lui stesso che era una sciocchezza, ma in paese dicevano che il vecchio era morto e imbalsamato e che le avevano continuato a tenerlo in vita per riscuotere la pensione. Erano arrivate delle denunce e il dovere è dovere. La forza pubblica entrò nell'antico salone che terminava con la veranda. Il vecchio stava seduto in poltrona, una coperta sulle ginocchia e la pipa in mano. Non ci furono parole. I suoi occhi profondi misero in fuga la polizia. La sua autorità di vecchio notaio, di vecchio combattente, non si sapeva di quale guerra. Il suo sorriso di parigino fecero arrossire il maresciallo e i due carabinieri che venivano dalla campagna e non avevano mai visto un vecchio così bello e gentile. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Passò un autunno, una primavera, e l'estate seguente, con la pensione del vecchio, i nipoti fecero un viaggio nel lontano oriente. Ma i primi venti di settembre, mentre il vecchio prendeva il fresco in veranda e la sua testa ciondolava saluti a tutti quelli che passavano, una ventata lo colpì di fronte e lo fece cadere indietro insieme alla poltrona. Dai giardini pubblici due ragazzi corsero in giardino e saltarono sulla veranda per soccorrerlo. Il notaio era a terra, dignitoso, anche se un po' rotto. Un occhio di vetro gli era saltato via. Il sorriso però serbava un fanciullesco ottimismo e le guance rosa di Minio erano tenere come pesche d'aprile. Quando lo mossero fece un rumore di bambola, come un lamento meccanico, quasi un «ui» con l'accento di Parigi. L'avevano tinto e imbalsamato e faceva la sua figura. Fu impossibile stabilire quando era morto. Tutti per rabbia criticarono il fatto e furono contenti che la famiglia Massa fosse arrestata. Ma ognuno in cuor suo dovette riconoscere che quei debosciati avevano avuto un'idea geniale. Tanto che un vecchio pensionato di guerra scappò con la moto del nipote e quando lo ricchiapparono, piangendo gridava che non voleva finire imbalsamato, che la sua anima aveva diritto al riposo, come quella del vecchio Massa. Qui Capitaneria di Porto. È in linea una certa Eleonora che chiede di Barbara Alberti. Ciao, sono Eleonora. Ciao Eleonora. Io storia di stalking, sono stata un paio d'anni con un ragazzo, ci siamo poi lasciati, dopodiché siamo tornati insieme e in quella fase lui era gelosissimo perché ero stata io precedentemente a lasciarlo e ha iniziato a controllare il mio telefono cellulare, prima di nascosto, poi chiedendomelo in maniera esplicita e fino a quando ho scoperto che addirittura lui entrava nel mio profilo email e nel mio Facebook e conosceva praticamente tutte le mie conversazioni con amici, anche spesso interpretando a suo modo quello che leggeva. Ecco, per me questo sta diventando abbastanza difficile da gestire, anche perché da un certo punto di vista vorrei rimanere con questa persona a cui sono affezionata, però non riesco a risolvere il problema, ecco. Non ho capito bene, scusa. Cioè, tu stai con lui? Noi stiamo... Non è una relazione ufficializzata, perlomeno non più. Io non me la sento, insomma, dal momento che lui sta vivendo la storia in questo modo. Quindi tu vivi col tuo poliziotto, praticamente? Tu vivi con... Io vivo con una sorta, sì, di poliziotto che... Mi controlla e puntualmente mi riporta pezzi di frasi o di discorsi che io ho fatto con altre persone, del tutto innocui tra l'altro, ma che lui interpreta come meglio crede, ovviamente spaventato dal fatto che io possa andarmene di nuovo. Ma io credo invece che lui voglia le corna a tutti i costi. Cioè che lui sia un maniaco in questo senso, perché questo tipo di controllo non è amore, è smania di potere, è volontà di mettere il marchio sulla tua vita. Cioè, guarda che la gelosia è una passione autonoma che si nutre di se stessa e che si sostituisce all'amore. Il motivo del suo, quello che lui chiama amore, è soltanto la passione di beccarti in castagna. Cioè, lui ti vuole colpevole. E tra l'altro, a parte che io ho un'idea che non me la toglie nessuno, perché l'ho visto più volte, la gelosia ossessiva è omosessualità repressa. È lui che pensa sempre agli altri maschi. Effettivamente ha degli atteggiamenti che me lo lasciano pensare a volte. È lui che è ossessionato dall'idea. È arrivato a contattare queste persone, a parlarsi a mia insaputa, a cercare di avere informazioni in più. Quindi è curioso delle loro vite, però si conosce molto male questo ragazzo. Crede di amarti e ti tortura. Dice di amarti e ti controlla, ovvero sia è lì proprio per sorvegliare, è il tuo sorvegliante, non è il tuo innamorato. Certo. E quindi è uno che segna mentalmente qualsiasi tuo gesto per poi ascriverlo a tua colpa. Tu gli vuoi bene quanto? Gli voglio bene. Io l'avrei già buttato dalla finestra comunque, scusa. Sì, è un atteggiamento questo di cui sono stanca. Io continuo a voler vedere in lui quello che era prima. È un atteggiamento padronale. Nel periodo precedente lui non mi ha mai dato segno, insomma, di poter pensare che lui fosse in realtà così. E devo dire che in questo momento sono io a sentirmi in colpa, nel senso che credo di aver provocato io il suo nuovo atteggiamento nei miei confronti, nel senso che sono stata io ad andarmene prima. Ma guarda, è tipico della vittima sentirsi colpevole. Succede anche alle donne picchiate. Alla fine il maltrattamento continuo induce a un senso di colpa. È il primo trionfo dell'aguzzino. Lui da innamorato si è trasformato in aguzzino. Che sia stato quell'episodio, il fatto che tu l'abbia lasciato a scatenare questo, tutto sommato è irrilevante secondo me, perché punta a salvarsi la pelle a questo punto. Avete dei momenti di intimità, di realtà, di sincerità reciproca in cui lui ammette che sta distruggendo l'amore? Se ne rende conto? Ci sono rari momenti in cui lui mi chiede scusa e si pente, però dobbiamo arrivare proprio a un momento di rottura estrema, per cui appunto io, arrabbiata per quello che mi sta facendo, mi allontano completamente, decido di non vederlo più. A quella minaccia lui reagisce tornando ad essere quello di prima, promettendomi che non avrà più questi atteggiamenti, però in qualche modo continuando a dare a me la colpa, cioè che anche lui si meraviglia del suo comportamento, ma che tutto sommato devo essere io a provocarlo, perché finora lui non aveva mai avuto problemi di questo tipo con altre donne, insomma. Quindi è un rito che lui ha creato, è una liturgia della colpa. Lui non ti ha mai perdonata e non ti perdonerà mai. Lui deve mettere continuamente in scena la tua colpa, ti deve far pagare quello che hai fatto, che non gli andrà mai giù. Ora senti, il perdono è una grazia, nessuno è tenuto a perdonare, non è detto che si debba perdonare un tradimento o un allontanamento. Quindi se lui non ha questa forza e questa grazia dentro di sé di perdonarti, mi pare che si profila un bel inferno. Uno così pensa di avere dei diritti totali sulla tua vita. Sì, è arrivato ad invaderla completamente, a convincermi del fatto che sia normale tra due persone che stanno insieme che sì, lui controlli il mio telefono. D'altronde guarda, lo fate insieme, devi anche vedere, lui si deve guardare dentro e anche tu ti devi guardare dentro, nel senso di capire quanta complicità masochistica c'è da parte tua. L'amore per me è un'altra cosa. Qui è spuntato un idolo e l'idolo è la tua colpa. Il vostro amore non c'è più, c'è soltanto questa rappresentazione costante, ripetitiva, noiosissima e disperante della tua colpa. E quindi quando si arriva a questo non c'è più sviluppo, non c'è più realtà nell'amore. Beh, però rifletterò sulle tue parole. I consiglieri non servono a nulla, servono solo a parlare e a chiarirsi a se stessi parlando e confidandosi. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, dopo alcune storie infelici, finalmente trovo l'amore vero. Un uomo che mi vedeva dentro, e io a lui. Risate, sesso, interesse comuni. Sai cosa vuol dire complementari? Io avevo due amiche del cuore cui raccontavo tutto. Erano felici per me. Volevano sempre sapere. Sono andata a Parigi per un master, e al ritorno, una delle due lo aveva corteggiato, con successo, perché lo conosceva intimamente grazie ai miei racconti. E lui mi ha lasciata. E si sono messi insieme, Eleonora. Beh, Eleonora, mi dispiace, però ti sta bene. Perché ti sei vantata. Ma perché ti sei vantata? Ma non ti bastava lui? Guai a quegli innamorati che non paghi del mistero e lo propagano. Nell'amore c'è una forza che detta si disperde. Adesso lo so, va di moda la spudoratezza sentimentale. L'amore è diventato uno spettacolo. Penso a unioni improbabili come, non so, Sarkozy e Carla Bruni. Un fighetto potente, un'antipatica internazionale. Ammettiamo anche che si fossero amati, ma cosa può rimanere dell'amore dopo che lo si è strombazzato e rappresentato in questa maniera? Non è che il sesso prima si faceva meno, è che oggi si viene a sapere subito. Fra TV e giornali Non c'è più un angolo riparato. Non hai finito di farti fare una fellazio a Hong Kong, che lo vengono a sapere fino al polo? Beato il sesso ai tempi delle tenebre, quando erano ancora possibili il segreto e lo scambio di persona. Se vi amate, state zitti. State zitti, il segreto è un elemento essenziale dell'amore e anche dell'erotismo. Invano ci ammonisce la favola di amore psiche contenuta nel libro di Apuleio L'asino d'oro. Nella favola di Apuleio, la sventurata psiche è una fanciulla mortale e la sua disgrazia è di essere nata troppo bella. È la più bella. È più bella perfino delle dee, tanto che Venere gelosa manda suo figlio Amore perché la rovini. Dice: vai da lei e falla innamorare del peggiore degli uomini. Amore obbedisce alla madre, ma quando vede la ragazza se ne innamora. Si innamora di Psiche e allora disobbedisce alla madre. Prende Psiche e la porta in volo in una reggia segreta. Amore è un dio, ma la sua sposa non lo sa e non l'ha mai visto. Amore la possiede di notte, la accarezza di notte, le parla di notte. E a lei piace molto questo marito senza volto. Lui l'ha avvertita. Le dice: però, Psiche, non cercare mai di conoscere il mio aspetto o mi perderai per sempre. E così vanno avanti. Un giorno però Psiche viene presa dalla nostalgia e chiede al marito di poter tornare a rivedere la sua famiglia. E lui allora, che le vuole molto bene, la conduce in volo con ricchi doni per le sue sorelle e per il padre. Arriva dalle sorelle, dà i regali e racconta di questo sposo amatissimo che è magico e che è invisibile. Quelle, che sono malmaritate e che sono le antenate di tutte le sorelle cattive delle fiabe, mica si rallegrano per i doni, anzi schiattano di rabbia per la fortuna che è capitata alla sorella. E allora tramano, queste due invidiose, tramano per dividerli. Dice una delle due: e a me è toccato un marito più vecchio di mio padre, più calvo di una zucca, più timido di una fanciulla. Le due invidiose cominciano a fare una grande, le fanno il lavaggio del cervello, le dicono, la convincono che lo sposo è una belva mostruosa, che la divorerà, che non si fa vedere proprio perché deve avere un aspetto orrendo. E Psiche tradisce l'amore perché dà retta a loro, le ascolta e allora, subornata dalle sorelle, quando torna da lui, una notte, mentre lo sposo dorme, lei viola il segreto. È divorata dalla curiosità di vedere questa creatura, di sapere se lei si giace con un mostro. Accende la lucerna, illumina lo sposo nel sonno e lo vede. Altro che mostro. Sul letto c'è Amore, nudo, con le sue ali bianche. Bellissimo. E tale la sua bellezza che Psiche non resiste. Si china per baciarlo e, chinandosi, una goccia d'olio bollente schizzò via dalla lucerna e ferì la spalla del dio. Ed egli volò via in un baleno dalle mani e dai baci dell'infelicissima sposa, se non si fosse vantata con le sorelle. Io ricordo un uomo che ho molto amato, un giorno mi disse: il giorno in cui tu parlerai di me con qualcuno vorrà dire che tra noi sarà finita. E infatti così è stato. C'è una poesia di William Blake che esprime perfettamente questa delicatezza dell'amore che viene sciupato dalle parole. Non cercare mai di dire il tuo amore, amore che non può essere mai detto. Il gentile soffio si muove in silenzio, invisibile. Le dissi il mio amore, sì, le dissi il mio amore. Le apersi il mio cuore. Ah, lei se ne andò. Appena mi lasciò, un viandante passò. Gli bastò un sospiro. La prese. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la scrittrice Melissa Panarello è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ciao Barbara. La ragazza scandalosa. Quando hai pubblicato Melissa P, tutti i grandi, cioè gli adulti che si sono indignati, come, perché c'è questa specie di cometa per cui poi ci si dimentica che l'età dell'amore sono proprio 15 anni, l'età del sesso, è l'età di Giulietta e Romeo, tra l'altro. Sì, ci si dimentica anche che il sesso non è scandalo, che il sesso è bellezza, è gioia, è amore, è gioco, e soprattutto a 15 anni, ma anche a 24, quanti ne ho adesso. Io ho letto 100 pagine del tuo libro in tre, non ho fatto in tempo a finirlo. Ma è sempre molto sconcertante come tu racconti l'amore. È una specie di corsa, una specie di continua ricerca, e come se non fosse mai lì. Poi ti dico, sono arrivata sulla pagina 100. Che mi dici dell'amore? È esattamente questa cosa per me. È una cosa che tendo a rincorrere continuamente perché non mi piace averla. Perché nel momento in cui ce l'ho, l'abbandono. Diciamo che l'insoddisfazione mi tiene in vita. Se non fossi insoddisfatta non avrei la sfida per andare avanti, neanche per creare. Quindi l'insoddisfazione d'amore in realtà è la cosa che più mi appassiona, che più mi riempie di energia. Però deve essere, comunque sicuramente sarà stata un'esperienza anche la lunga monogamia che hai avuto. Ce l'ho ancora, cioè un'altra monogamia, ma io sono monogama solitamente, monogama e leale. Ci penso appunto che Melissa sia una trasgressiva che va la notte in giro per discoteche con le minigonne tacchi e spillo, in realtà mi bevo la tisana davanti a Porta col mio fidanzato. Quindi lì la massima trasgressione è Porta a Porta, perché veramente qui è l'abisso proprio. Meglio sarebbe farsi un'orgia con 25. Sì, la cosa più porno sono i plastici di Bruno Vespa. E quindi tu dici sono monogama, quindi ci sono dei momenti però in cui pensi di averlo raggiunto questo amore? Cioè, per me l'amore è condivisione, è amicizia prima di tutto. Poi se sto con un uomo è un'amicizia con il sesso, però tendo a basare molto i miei rapporti d'amore sul senso d'amicizia, sul valore dell'amicizia, che per me è fondamentale. Non mi chiedo neanche cosa sia l'amore, dove l'amore, perché l'amore, forse un po' lo faccio nei miei libri, perché lì sono un po' costretta a farmi le pippe mentali, se no non saprei che scrivere. Ma nella vita questa cosa qui non c'è per niente. Senti, io non ti ho mai visto da Vittoria Cabello perché è un po' tardi la sera. E cosa fai? Fai tarocchi, mi hanno detto? Sì, faccio i tarocchi agli ospiti, e molti non ci credono, però secondo me appena cominceranno a succedere le cose ci crederanno. Perché sono molto brava a leggerli. E io sai che non so fare i tarocchi e non me li sono neanche mai fatti fare. Non ci credo. Forse una volta. È difficile, una volta perché soffrivo per amore, per cui mi attaccava tutto, capisci bene, ma tanti anni fa. Però ricordo che ero profondamente insoddisfatta perché pensavo che alla fine me lo inventavo io il mio destino, sai, c'è questa idea presuntuosa, infantile. Il tarocco è un racconto, infatti da quando leggo i tarocchi devo dire che scrivo anche meno, perché i tarocchi per me sono uno strumento di conoscenza immediata e anche, come dire, atavica in qualche modo. Io non leggo tanto il futuro, non è quello che mi interessa dal tarocco. Il tarocco mi dice quello che sto vivendo adesso, mi fa capire delle cose come una seduta psicanalitica, è veramente un racconto letterario. Cosa ti aspetti da te? Da me? Forse mi aspetto una cosa, di diventare un po' più scema, perché fin da piccola mi sono state date tante responsabilità, quindi ho vissuto tutto in maniera molto anziana fino adesso. Quindi vuoi diventare più giovane, più spensierata? Sì, crescendo voglio ingiovanire. Un'ultima cosa, ci sono state delle reazioni, perché mi è sempre incuriosito, dopo la tua lettera a Ruini? Guarda, facciamo un discorso un po' più ampio. Le reazioni nella mia vita ci sono sempre, qualsiasi cosa io faccia. E le reazioni partono sempre già prima che io cominci a scrivere un libro. Cioè quando io dico, ragazzi, sto scrivendo un libro, esce l'anno prossimo, tutti cominciano ad attaccarmi, qualsiasi cosa io scriva. A priori? A priori, sì, è una cosa proprio a prescindere. Cioè il fatto che Melissa P scriva e poi magari faccia anche successo è una cosa che dà molto fastidio, perché sono donna, perché sono giovane, perché do un'idea appunto di liberazione sessuale che evidentemente qualcuno si è dimenticato, non ha mai avuto. Per cui la lettera Ruini ha subito lo stesso trattamento delle altre mie opere, che magari non vengono neanche lette, ma vengono allontanate come peste, diciamo, appunto a priori. Quindi tu hai la campagna preventiva, diciamo, anti Melissa. Sì, molto, però mi diverte anche. Beh, capirai. È una forma di narcisismo soddisfatto. Sì. Senti, mi dici un'ultima cosa, mi dici un pensiero tenero verso di te e un pensiero severo? Un pensiero tenero? Guarda, mi sono vista ultimamente camminare da Victor Victoria quando entro, durante la sigla. Mi faccio tenerezza perché sembra un folletto, perché sono bassissima, sono 1,50 m. Sì, me lo ricordo. E quando cammino veramente mi faccio tenerezza, perché è una percezione che finché non ti vedi non hai. È severo, guarda, sono bizzeffe. Basta uno. Che sono troppo superficiale. Spesso non abbandono le cose, non me ne occupo fino in fondo. Insomma, sono una molto irrequieta, quindi abbandono le cose molto facilmente. Non mi piace portarle a termine. Anche gli amori? Dipende. Над нашими домами разносится набат, И затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Диана Джеркович è una mia amica. È alta, bella, forte, spietata, leale. Ha gli occhi blu, è nata a Belgrado, ma Luigi, il suo ardente marito di Salerno, l'ha trattenuta qui. Lei pensa in serbo, ma scrive in italiano. E ha appena finito un romanzo affascinante, durissimo, che aspetta un editore e si intitola Inclini all'amore, dove rivela un mondo di cui non sappiamo niente e a malapena ci ricordiamo di averlo bombardato nel 1999, la prima guerra umanitaria, dove si uccide per il bene della gente. Qui Capitaneria di Porto, è in linea Tiana per Barbara Alberti. Pronto Tiana, sei qua, sei al faro? Sì, sono qua. Puoi abitare la mia solitudine con qualche racconto? Come no, ti racconto una bella storia di un amore, va bene? Quello funziona sempre, a me piace sempre. Lei e lui andavano al liceo, figurati, una storia che potrebbe essere anche noiosa. Quanti si sposano dal liceo e poi si odiano a 30 anni, a 40 anni, però rimangono perché sono molto legati, quasi fratelli e sorelle. Invece lei faceva la prima, lui la quarta, lei si era innamorata, la solita cosa degli innamoramenti dei ragazzi, no? Solo che questo che faceva l'ultimo anno, che il quarto, nel mio paese le scuole superiori sono di 4 anni, non si decideva mai, stava sempre vicino ma non si decideva mai. Allora lui era uscito dal liceo, andato a studiare, lei faceva il liceo e le cose andavano avanti. Lei era innamorata, lui era sempre presente e così via. Quando lei ebbe 18 anni si stufò un attimino, decide che bisognava diventare donna, no? Ma lui stava sempre vicino, però non succedeva niente, mai nulla. L'unica cosa fisica che succedeva quando si vedevano, a lui che era un bel ragazzo con certi occhi blu scuro, proprio come quel blu che tu vedi dal tuo faro, quando vedeva lei diventavano chiari, quasi color fiordaliso. Era l'unica sua reazione. Lui veniva anche di notte, certe volte sotto casa sua. Lei scendeva senza una parola d'estate, all'una di notte, alle 2 di notte, lo sentiva, si metteva sulla sua moto e andavano a fare le passeggiate lungo il fiume senza sfiorarsi mai, mai, mai. Parlavano tanto, di tantissime cose. A 27 anni, che lui era già adulto, lei credeva che fosse anche sposato, forse era anche diventato padre in quel periodo. Lei aveva deciso di vivere all'estero. Si era innamorata tantissimo, voleva cambiare il paese, la città, tutto quanto, andare a fare la vita altrove. Aveva una paura pazzesca, pazzesca. E chi chiamò? Chiamò lui. Era lui l'unica persona che poteva fermarla. Un'amica le diede le chiavi di casa sua, dove non c'era nessuno. Era un pomeriggio, rimasero là e accadde il fataccio, ma non quello che pensi te. Ci fu un bacio, dopo 13 anni. Ci fu un bacio che durò un'ora, 2 ore, tutto il pomeriggio. Dentro ci fu di tutto quello che non avevano fatto questi due ragazzi diventati uomo e donna. Delle notti non passate insieme, del toccarsi, del stare insieme, assolutamente tutto in un bacio senza che lui muovesse la mano dalla sua spalla sinistra. Ad un certo punto lei gli disse: guarda, io ho paura di andare. E lui disse: hai paura, meglio, andrai oltre. Si alzò da questo divano dove stavano e le disse: guarda, per me sei troppo preziosa per non farti andare via. Alzati che ti accompagno a casa. Dopo 12 anni questo era il risultato. Allora lei si alzò, lui l'accompagnò a casa, lei partì. Non volle più sapere nulla di lui per tanto tempo. Cercavano di raccontarle le cose, però lei non volle sapere nulla, non volle incontrarlo mai, non volle chiamarlo e non lo chiamò mai. Fino a quest'anno, io sono salita su un filo bus sgangherato di Belgrado, perché io a Belgrado vado spesso, mi siedo davanti a un signore, e lo riconosco, era lui che stava leggendo qualcosa. Ad un certo punto alzò gli occhi e ad un tratto il suo sguardo da blu notte divenne quasi fiordaliso. Io ebbi una paura pazzesca, mi alzai e scesi alla prima fermata. Non era la mia, ma io scesi dal filobus. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mio marito mi ha lasciata e ha fatto bene. Fra noi era tutto finito da tempo, così ci siamo separati senza scenate. Abbiamo un figlio di 14 anni che va e viene liberamente da casa mia a casa del padre senza giorni fissi, ha due residenze non lontane e ne dispone a seconda delle sue esigenze. Vuole molto bene a entrambi. Un solo problema. A casa del padre è ordinato, a casa mia fa un casino, ma e soprattutto lascia il bagno in modo disgustoso e più predico e peggio fa. Desiree. Oh, ecco, finalmente, qualcuno che si separa senza ridurre i figli a ostaggi di una guerra e soprattutto capisce che non può essere un tribunale a decidere quando si possono vedere i figli. Comunque, circa appunto la maleducazione del tuo, io a mio figlio, che era peggiore del tuo, gli lasciavo delle letterine pedagogiche attaccate con lo scotch sopra il water. Perché la mia idea è che quando Pasolini dice la famiglia è una associazione a delinquere, non pensa alla cronaca nera, ma col suo sguardo probabilmente trapassa i muri delle nostre case normali, dove non si stupra e non si ammazza. Perché non sarà per i grandi delitti che andremo all'inferno, ma quello che uccide l'amore sono le piccole maleducazioni. La prima moralità è tirare l'acqua al cesso. E quindi questa è una delle letterine che avevo scritto a mio figlio, che lasciava il bagno in condizioni disastrose. Caro figliolo, non ci importa dunque che la mamma ci consideri un piscione senza fantasia, come i cessi pubblici, ove si gareggia nell'indecenza, macchie giallo denso bruttano a raggiera l'orlo della tazza, rapprese sul legno, con un effetto rattristante per la mamma. Ella si dice, con estranei non lo farebbe. Dunque, è proprio la mamma la pattumiera di ogni incuria. Ma come? Sei ben educato con chi vedi di rado e villano con colei che vedi sempre. Non vogliamo invece sedurre la mamma e davanti a lei apparire come smaglianti angeli, prima che eroici puliti, capaci di badare i nostri rifiuti e attenti a non lasciare come nostra traccia nel mondo un rigagnolo di piscio? E pensare che è così bello accudirsi decentemente, così di soddisfazione il gesto con cui ci chineremo a lavare il water, assaporando la casta gioia di chi, usando i servizi dopo di noi, non avrà a schifarsene né a maledirci. Della soddisfazione della moralità molti non si avvedono perché non la praticano. Prova dunque, caro adolescente, a cancellare dietro di te forfore, croste, umori e peli, e te ne troverai di sicuro più felice, la tua mamma. А если что не так, не наше дело, как говорится, родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, sento dei passettini nell'etere. Molto inquietanti. Questa deve essere la Maria con i suoi tacchetti da 25 centimetri. Dove sì, sei? Sono io. Sei tu, Maria? Sì, sono io. È la Maria delle Acciughe, così detta appunto. Maria per una storia che ci ha già raccontato con un famoso venditore di acciughe. Che cosa ti è successo questa settimana, Maria? Ho rincontrato il mio siciliano delle acciughe. Ah, e dove? È venuto a Venezia, devo dire, è proprio un vero maschio lui. Cioè, io sono sempre stata una maschilista sfegatata e questa volta mi è toccato, no? Chi è che dice quando il Signore ti vuole punire, esaudisce i tuoi desideri, no? Ah, quindi a te piace il maschio proprio che comanda, eh? Esatto, e l'ho trovato perché lui... Per esempio, mi ascolta però fino a un certo punto, perché le donne comunque, sì, vanno ascoltate un pochino, o così. Poi per la strada era divertente, perché per la strada lui cammina davanti a me. E io il primo giorno ho provato un po' a stare al passo, quindi un po' correvo. E stare al suo dietro, fianco, sì. Correvo dietro, però non ci riuscivo perché lui mi seminava, insomma. Lui come un monarca, come un sovrano, lui davanti e la corte dietro, no? Mi piace però. Ah, ti piace? E poi anche, non so, in giro, in vaporetto, così, quando io parlavo lui mi diceva, mi guardava e mi diceva, ma parla piano. Perché le donne non devono parlare in pubblico, è vergogna per il maschio, vero, che li accompagna, perché vuol dire che sono libere, no? Che sono sfacciate, che sono moderne. E poi? E poi anche in casa era serissimo, lui è un uomo molto divertente, però in casa era serio. Ho detto, ma scusa, ma come mai questo muso qui, che mi sembravi uno così allegro? E lui mi ha detto, ma perché? Cioè, perché era normale, cioè, la donna non bisogna ascoltarla, né guardarla, né considerarla più di tanto. E quindi comunque... sorridere è un segno di debolezza? Ma no, questo non lo so, però... No, perché mi hai detto che non rideva mai, che era cupissimo. Sì, in casa sì. Doveva far pesare la sua possanza così di dominio. E comunque è tanto maschilista, ma anche tanto maschio. E visto che sono così rari i maschi, sono felicissima di averli incontrato. E poi per esempio ci siamo fatti tante foto, no, a dire la verità se le fatte lui le foto, cioè lui se le faceva fare da me. Io ci sono rimasta un po' malino perché... Ah, non hai mai chiesto una foto insieme? No, ci sono rimasta un po' male, infatti. Però comunque dopo ho capito che anche quello, cioè, l'uomo... Esiste solo lui nel mondo? Sì, certo. E certo, l'uomo, c'è solo la sua immagine che prende tutto il mondo, sì. Certo. Cioè, lui era a Venezia da solo, ecco. Certo, tu eri cancellata dal fotogramma, capisco benissimo. Sì, io spero che torni perché così... Perché così ti tratta male un'altra volta, certo. Sì. È assurdo, dice la ragione. È quel che è, dice l'amore. È infelicità, dice il calcolo. Non è altro che dolore, dice la paura. È vano, dice il giudizio. È quel che è, dice l'amore. È ridicolo, dice l'orgoglio. È avventato, dice la prudenza. È impossibile, dice l'esperienza. È quel che è. Dice l'amore. Ho riletto una poesia di Erich Fried che mi fu donata una volta da Fiona Diwan. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.